La lancia navigava sbuffando sull'acqua liscia e brillante. Improvvisamente nel sole piove, l'acqua cade obliqua, argentea e fresca. Classico tempo di Nagasaki, disse una voce americana. È questa pioggia che a Nagasaki fa crescere i più splendidi giardini del mondo. Al di sopra di loro, la nuvola aveva come allungato un plumbeo braccio verso il sole, ma dileguò in un soffio e la pioggia cessò. Ora la lancia attraccava al molo. Aiwan saltò a terra. Per un momento gli parve che il suolo gli oscillasse sotto i piedi. Si guardò attorno e vide un giovane giapponese vestito all'europea che gli si avvicinava. Poi ne sentì la voce che, parlando in cinese con forte accento straniero, diceva: «Il signor Wu Aiwan? Per servirvi, sono l'umile Wu Aiwan. Sono il figlio del signor Muraki», rispose il giovanotto. Bongi Muraki, mio padre vi invita a casa nostra. Sorrise amabile, rivelando la bianchezza dei denti, poi si tolse il cappello, mostrando i duri capelli neri che gli incorniciavano il cranio come una spazzola circolare. Beh, disse improvvisamente in inglese, parliamo inglese? Lo parlo molto male, ma per me è meno ostico del cinese. Come preferite, rispose Aiwan. Salendo sulla minuscola auto di Bungi Muraki, pensò che non avrebbe mai più voluto parlare la propria lingua. Voleva come amputare tutto il suo passato per ricominciare una vita del tutto nuova. Basta coi sogni umanitari, con le speranze, con la fede. Avrebbe vissuto alla giornata, ora per ora, mai pensando più in là. In questo stato d'animo, sedette accanto a Bungi Muraki e si lasciò trasportare. Si fermarono davanti a un cancello coperto da un tettuccio di paglia e praticato in un basso muro di mattoni. Bungi aprì la portiera della macchina e saltò giù con un'angolosa, tagliente precisione di movimenti, come se i suoi muscoli fossero stati allenati ad operare secondo ritmici scatti. «Stiamo qui», disse rivelando ancora nel sorriso la bianchezza dei denti, e afferrò la valigia di Aiwan nonostante le sue proteste. Finirono col portarla in due per alcuni passi finché venne loro incontro un vecchio servitore che li alleggerì del peso e portò a lui stesso la valigia. «È il nostro giardiniere», disse Bungi, «lasciatelo fare». E precedette l'ospite attraverso un giardino che pareva un paesaggio di laghi e di colline in miniatura. Varcarono un fragile ponticello rosso gettato su di una leggera corrente. E superata la curva del sentiero, videro laggiù la casa, una costruzione bassa, le cui persiane scorrevoli a fogli di carta bianca occhieggiavano attraverso l'oscuro fogliame verde degli alberi fioriti. Tutto nel giardino era di una perfezione che colpiva. Sul muschio ai piedi degli alberi non c'era verso di trovare una foglia o un masso fuori posto nella corrente che scorreva garrula, precipitando nelle minuscole cascate. «Il giardino di mio padre», disse Bungi, «è celebre. Eccolo là, mio padre». Aiwan vide un vecchio avvolto in un kimono di seta grigio argento, in piedi sotto un ciliegio in fresca fioritura. L'uomo aveva tirato a sé un rametto e ne osservava i bocci. Sentendo che qualcuno si avvicinava, si voltò. «Ah», disse a suo figlio, «sei qui». Parlava in giapponese, ma quando Bungi disse «Ecco il nostro ospite», soggiunse in un faticoso cinese di vecchio stile libresco: «In questa piccola casa il figlio del mio vecchio amico è il benvenuto con precedenza su qualunque altro». Ad Aiwan riuscì subito simpatico. In quell'altra vita, vissuta prima che gli fossero capitati i recenti guai, Yen Lan gli aveva detto «Quando avremo ristabilito l'ordine in casa, ci batteremo coi giapponesi e strapperemo loro quello che essi ci hanno preso». Dal tempo delle 21 domande era stato fra i doveri di ogni cinese ben nato l'odio contro i giapponesi e il parlare della guerra che un giorno o l'altro sarebbe scoppiata. Ma Aiwan non poteva odiare quel vecchio signore. Ne notò la pelle d'oro pallido sotto l'argento dei capelli e gli occhi neri e giovanili. Era così piccolo che Aiwan lo guardava quasi come se fosse un bambino. A chi poteva dispiacere? «Molto gentile da parte vostra», rispose. «Io non sono degno di tanta gentilezza». «Ah, vostro padre è mio amico e tutto quanto abbiamo è vostro», disse il signor Muraki. Non aveva abbandonato il rametto di ciliegio e soggiunse: Come vedete, i ciliegi stanno per entrare in fioritura. Siete arrivato al momento buono. Fra 6 giorni tutto il Giappone sarà in fiore. Mio padre, commentò Bungi, vive le sue primavere per queste giornate, poi d'autunno per la fioritura dei crisantemi. Seguì una pausa vagamente imbarazzata. Il signor Muraki sorrideva lievemente al figlio. Ah! Disse con la sua voce mite, aspirando forte. Faresti meglio a permettergli di andare in casa a rinfrescarsi, Bungi. Fece un cenno di saluto col capo, a guisa di congedo, e tornò al suo rametto di ciliegio. Mio padre, spiegò Bungi a Daiwan, è ritirato dagli affari. Ora a capo della ditta sono i miei due fratelli. E voi? Oh, io non sono che un impiegato in sottordine, rispose ridendo Bungi. Sorveglio gli imballaggi io e le polizze. La nostra azienda si occupa di importazioni e di esportazioni. Erano giunti a una grande porta, dalla quale, avvolta in kimono di cotone a grossi fiorami, dai colori vivaci, uscirono loro incontro due ancelle carine. Bungi si fermò e allungò un piede. Una delle ragazze si inginocchiò e cominciò a slacciargli le stringhe della scarpa. Iwan aveva sentito parlare di quell'usanza e quando l'altra ancella imitò la compagna, anche lui allungò il piede, sforzandosi di considerare naturale lo spettacolo di donne che servivano a quel modo. Sentì che le scarpe una dopo l'altra gli erano sfilate dai piedi, poi gli vennero offerte morbide pantofole di paglia, infilate le quali egli seguì Bungee su per i gradini nell'interno della casa. Mai ne aveva veduta una uguale. Le stanze erano numerose e solo in parte divise l'una dall'altra da mobili tramezze o telai di carta che fungevano più che altro da paraventi. Era come entrare in un'arnia, immensa e linda. Nell'aria era un odore di stuoie pulite e di legni non verniciati. Per tutte le stanze aperte alitava la brezza primaverile carica degli aromi del giardino. A mio padre piace vivere integralmente alla vecchia maniera giapponese, disse Bungi, così come vedete, però nella vostra camera abbiamo messo una sedia e così ce n'è una nella mia. Invece mio fratello sposato, Shio, che a casa a Nagasaki ha sedie dappertutto, molto moderno mio fratello Shio. Rise forte e Aiwan sorrise. Nell'intimo si sentiva sempre profondamente a tono, voleva vivere alla giornata, di minuto in minuto, trovava che quel particolare momento era divertente. Ma nulla aveva il potere di scuoterlo dalla sua apatia. Questa è la vostra camera, disse Bungi, è attigua alla mia, vedete? Si apre nel giardino. Fece scorrere la tramezza e Aiwan vide una stanzetta quadrata. Mancava il letto, tutto l'arredamento consisteva in una sedia a braccioli di bambù e in una tavola. Su una mensoletta pendeva un pannello di carta sul quale era scritta una poesia e sotto, in un vaso verde, un rametto di pesco tempestato di gemme. Nessun altro ornamento. Bungi scostò un'altra tramezza ed ecco apparire un angolo del giardino. Il muro di cinta era a pochi metri, ma addossato ad esso era un aceto nano, carico di gemme scarlatte. Sotto una polla d'acqua di pochi palmi, accanto una roccia in miniatura. Nessuno viene mai qui, ad eccezione dei giardinieri, spiegò Bungi. Questo angolo vi appartiene. Quando vorrete dormire, battete le mani e una domestica stenderà le vostre coperte sulle stuoie. Fra mezz'ora sarà servita la seconda colazione. Una domestica vi porterà l'acqua per lavarvi. Io tornerò fra poco. Tese la mano con brusco gesto alla straniera. Aiwan allungò la propria e se le strinsero. Partito Bungi, Aiwan sedette e si guardò attorno. Tutto nella casa era tranquillo. Il silenzio era così alto che egli poteva udire il lieve frusciare sibilante delle tramezze scostate e un lontano mormorio sommesso. La casa era ordinata e linda come il giardino. In giro nessuna traccia di polvere. Il frammento di giardino sembrava parte della casa stessa. Il quadratino erboso era verde e raso e pareva continuare il liscio pavimento come un tappeto. Aiwan si sentì pervaso da quella gran pace. La vita qui si svolgeva logica e razionale. Luce, chiarezza, immacolata pulizia ovunque e, nonostante la fragilità degli oggetti, un senso di antica stabilità. Si sentiva che quella vita durava da generazioni. Aiwan fu lieto di trovarsi nel nuovo ambiente. Non aveva progetti propri, forse non ne avrebbe avuti mai più. Perché progettare, quando speranze e progetti potevano svanire in una notte come nebbia? Si sentì stanchissimo e sedette dove il pavimento finiva, coi piedi sull'erba, fissando la polla dell'acqua col cervello vuoto e il cuore fermo. A un tratto udì qualcuno che tossiva discretamente dietro la tramezza. Al suo avanti comparve Bungie avvolto in un kimono di seta scura. Pareva un altro, più dolce, più figlio del signor Muraki. Sul braccio portava un indumento di seta. Ho pensato che vi piacerebbe indossare questo, disse. Era un kimono. I want, si schermì. Oh, se non vi suonerà scortesia, disse, preferisco indossare una delle mie vesti. Come volete, rispose Bungie. Pensavo soltanto di liberarvi da quegli scomodi vestiti occidentali. Vanno bene per gli affari, ma non per stare a proprio agio. Rise, poi si volse a guardare il giardino mentre Iwan indossava la veste di seta azzurra che si era portata con sé. L'ultima volta che aveva indossato una veste era stato a casa sua. Ora disse: Sono pronto. Bungie si volse ed eccoli l'uno di fronte all'altro, giovani entrambi, non dissimili nel nero colore dei capelli e degli occhi, pur tuttavia così diversi. Iwan era più alto di mezza testa di Bungie. Di corporatura più snella, di volto più ovale, di mani e piedi più delicati, ma il corpo di Bungie era più saldo e robusto. Effettivamente, disse Bungie, il nostro vestire non differisce poi tanto. L'abito che porto è quello tradizionale del vostro popolo, del popolo cinese. Voi invece portate il costume moderno. Vi è comodo? Sì, vedo che lo è. Aderisce perfettamente e le maniche non sono così larghe. Quello che a me non va troppo sono le nostre maniche larghe, ma il nostro costume sta molto bene addosso alle ragazze, lo vedrete conoscendo mia sorella. È una moga, cioè una ragazza moderna, dico nell'intimo perché in casa mio padre non ne vuole sapere di modernismi. Anch'io del resto non credo che in abiti moderni stia bene. Venite, dovete aver fame, io ho sempre fame. Tutti i discorsi di Bungie finivano in un breve riso. Accompagnò Iwan a una vasta camera quadrata prospiciente il giardino. Sulla porta si fermò e si inchinò ai genitori. Mamma, ecco Aiwan, disse. Aiwan fece atto d'omaggio alla signora Muraki, pensando che raramente aveva veduto immagine così bella. Com'era diversa dalla figura grassoccia di sua madre. La signora Muraki era sottile, con un volto triste e occhi pieni di una strana, morta pazienza. Ma nonostante avesse superato la cinquantina e i capelli pettinati alla pompadour fossero grigi, aveva volto liscio e giovanile. Indossava una veste di uno sbiadito color purpureo, di pesante seta grezza. Quando si inchinava, il suo corpicciolo pareva scattare come su una cerniera alla cintola, sopra l'ampia fascia di color più carico che le serrava la vita. Poi subito si rialzava, come un fiore dopo una ventata. «Ah!» mormorò. Sono così contenta che siate arrivato. Sedete, prego, e perdonate il mio povero inglese, che sono costretta a parlare non avendo mai vergognosamente imparato il cinese. Io spero di poter imparare presto il giapponese, disse Aiwan, così da potermi esprimere nella vostra lingua, signora. Ah, rispose dolcemente la signora Muraki, e fu quella l'esclamazione, come un consenso ed un eco. Sedettero sulle stuoie argentee collocate intorno a un basso tavolino prospiciente il giardino. Anche quella stanza era priva di ornamenti, salvo per le tramezze mobili, una colonna in un angolo e un lungo piatto colmo di narcisi ai suoi piedi. L'aria era fresca e l'atmosfera del luogo leggera e serena. Comparve una giovinetta rosea con delle ciotole su di un vassoio. Nessuno le rivolse la parola, ella collocò una ciotola davanti a ciascun commensale e se ne andò. Bungie scoppiò in una gran risata mentre i genitori sorridevano. Quella, esclamò, è mia sorella, è timida e non vuole mangiare con noi oggi, ma si abituerà. Si può parlarle? Domandò Aiwan. È nelle vostre usanze rivolgerle la parola? Per cortesia non aveva guardato la giovinetta. La signora Muraki disse con voce dolce alcune parole che Aiwan non intese. Bungie tradusse. Mia madre, disse, ha detto aspettate fino a più tardi, ella ricomparirà. Si chiama Tama. Ma la ragazza non ricomparve. In sua vece comparve un'ancella con la successiva portata di pesce. Tama sapeva che vi avremmo detto chi era e perciò non vuole farsi rivedere. Risero insieme e Aiwan si sentì improvvisamente in pace. Non avrebbe più pensato. Non c'era più nulla da ricordare. L'aria in quella casa era limpida e pura. La luce penetrava liberamente. I legni non verniciati spandevano in ogni camera una delicata fragranza, tutto era libero, tutti ridevano con schiettezza, come se nessun pensiero molesto li turbasse. «Gradite il nostro povero cibo?» domandò ad Aiwan la signora Muraki. «Mi piace tutto», rispose Aiwan. Poi arrossì, forse si era espresso con troppo calore. «Ah!» commentò il signor Muraki. «Questo è il modo di sentire dei giovani!» I coniugi Muraki tornarono a sorridere con benevolenza. Aiwan sentì che non riusciva antipatico e ancora si consolò. Benché la conversazione fosse parca, nessuno sentiva imbarazzo. Era come se ciascuno dei presenti sapesse esattamente quello che doveva fare e lo facesse. Il servizio procedette verso la fine, con portate di riso servito in un recipiente laccato, poi con del tè, e finalmente, dopo che la signora Muraki si fu piegata in un inchino come una farfalla a chiude le ali e se ne fu andata, Bungi diede un'occhiata a suo padre, il quale disse ad Aiwan: «Vostro padre mi ha scritto che desidera che vi impratichiate nel nostro ramo di affari. Se non vi dispiace, avrei predisposto che dedichiate metà del vostro tempo al lavoro d'ufficio. Alla mattina lavorerete al fianco di Bungi che vi aiuterà. Nel pomeriggio potrete studiare o giocare». «Vi ringrazio», rispose Aiwan. «Sì, era contento davvero che qualcuno gli portasse via, per così dire, il controllo della propria vita e organizzasse le sue giornate, ora per ora. Quello era un modo ideale di vivere». Il signor Muraki si alzò. «Allora siamo d'accordo», disse. «Se qualcosa non vi andrà, me lo direte». Parlava con un tono fra l'interrogativo e l'autorevole, ma perfettamente cortese. Aiwan disse: «Ma io sono certo, signore, che tutto andrà bene. Mi piace che tutti coloro che sono in casa mia siano contenti», mormorò il signor Muraki. S'avviò al giardino, esitò e poi mormorò di nuovo: «Quegli iris dovrebbero essere sforbiciati, sono troppo sviluppati». Scese sull'erba, svoltò l'angolo e sparì. «Ora», disse Bungi con gli occhi lustri di malizia, «arriverà Tama. Come vi comporterete con lei, Aiwan? Come un mobo? Cioè come un giovanotto moderno? O come uno di stampo antico?» Aiwan si sentì imbarazzato e intimidito. «Che cosa preferirà vostra sorella?» domandò. Ma non aveva alcuna ansia o impazienza di conoscere la ragazza. Entrando al principio del pranzo, ella non aveva neppure sollevato il capo. «Non vi dirò nulla», rispose Bungi. «Giudicherete voi stesso. Unica raccomandazione? Parliamo!» Tacquero per un momento, poi di nuovo Bungi scoppiò a ridere. «Di che cosa parleremo?» domandò. «Ah, non riesco ad immaginarmelo», rispose Aiwan, non potendo lui pure trattenere il riso. «Siamo davvero un po' sciocchi», disse Bungi asciugandosi gli occhi. «Dignità ci vuole!» «Piacerà la dignità a vostra sorella?» domandò Aiwan. Il cuore durante quell'assurdo discorso gli faceva un gran battere, ma era una gioia chiacchierare così, con quello sconclusionato abbandono. Da tempo, da quando soleva celiare con Peonia prima che ella sapesse della rivoluzione, non si sentiva così ilare. «Scht!» rispose Bungi. «Eccola che viene!» Alzò alquanto la voce, atteggiò a compostezza l'espressione del viso e cominciò: «La questione del cambio straniero è in se stessa estremamente seria. Vedete bene com'è quando noi accettiamo ordinazioni per forti partite, per esempio dagli Stati Uniti, dobbiamo assicurarci contro le fluttuazioni dei cambi suscettibili di annullare il nostro profitto». La tramezza fu scostata ed ecco esitante comparire Tama. Aiwan alzò gli occhi. La fanciulla indossava un kimono color rosa, calze bianche immacolate e scarpette giapponesi. Stretta attorno alla vita portava un'aurea cintura di broccato, ma i capelli non erano pettinati secondo la foggia giapponese a raggiera, lustri e oleati. Al contrario, erano tirati indietro, lisci, attorno al tondo e roseo visino. Non portavano traccia di oli e finivano legati a nodo sul collo. Anche Tama eseguì un inchino a farfalla come sua madre. La testa della signora Muraki era sempre un po' abbandonata, ma Tama invece, dopo l'inchino, la teneva ben dritta sul collo. Disse in inglese: Eccomi, Bungi. Mia sorella Tama, disse Bungi con occhi danzanti. Il mio amico Aiwan, Tama. Aiwan si alzò per inchinarsi, ma Tama s'avanzò con la mano tesa. Ci stringiamo la mano, vero? Disse con voce morbida e vivace. Bungi mi ha detto che siete un mobo, vero? Anche a me piace essere moderna, nonostante mio padre sia di idee diverse dalle mie. Frequento l'università di Kyushu. Egli prese la ferma manina che gli era tesa, la strinse e la lasciò subito cadere. Tama ora non pareva più timida, ma era timido lui, che non osava guardarla in faccia mentre lei si sedeva con grazia alla tavola e sentiva con la mano il calore della teiera. Ora, disse con garbo, berremo un po' di tè bollente insieme. Che cosa stavi dicendo, Bungie? Non ti ho mai sentito parlare di cambi prima di adesso. E risero tutti di nuovo. Vedete com'è? Disse Bungie ad Aiwan. Ma non dovete perdere di vista il fatto che in realtà in Tama ci sono due ragazze. Davanti ai genitori è una ragazza impeccabile e timidetta. Bungie! Protestò lei. Non devi! E c'è poi un'altra Tama, proseguì sentendo. Proseguì imperterrito Bungi, la moga, ardita, anzi sfacciata, a cui piace moltissimo conversare a tutto spiano con gli studenti dell'università. È falso, non è vero, protestò Tama. Non ci credete. Crederò soltanto a quel che mi direte voi, disse Aiwan. Quella gaiezza di lei lo incantava, era così carina, arrossente, naturale. Per un momento dimenticò tutto il resto. Mai si era attardato così a conversare con una ragazza in una stanza. Solo con Peonia gli era accaduto, ma Peonia non era che un'ancella. Sono davvero fortunato, gli scappò detto, fortunato di essere capitato in casa vostra. Non vi dico quanto fossi infelice. Credevo che niente più potesse essere buono. Questi erano i miei pensieri di stamattina, e ora, per il solo fatto di trovarmi qui, mi sento già rasserenato. Tama e Bungi ascoltavano con aria di delicata comprensione. Tama, sospirò, capisco. Qualche volta anch'io sono come sopraffatta dalla malinconia, ma non dura molto. Aiwan disse: Ho idea che qui nessuno possa essere davvero malinconico. Vide i suoi interlocutori scambiarsi un'occhiata di intesa. Bungi rispose con una faccia più pensosa di quella che Aiwan gli aveva visto sino allora. In questa casa, è vero, noi siamo fortunati. Non credi che lo siamo, Tama? Tama assentì, sì, rispose. Poi soggiunse: Ma io credo che le donne non siano mai così fortunate come gli uomini. Oh, tu personalmente sei più fortunata di grandissima parte delle donne, replicò Bungi. Sei figlia unica e un po' viziata in questa casa, Tama. Di qui la mia malinconia, fu la sospirante risposta. Per un secondo tacquero. Una leggera ombra sembrò addensarsi intorno a loro come un fiato di nebbia nell'aria. Qualche cosa che essi conoscevano ma che pure non dicevano ad Aiwan. Poi Bungi disse bruscamente: Tama, dobbiamo andare. Akio mi aspetta all'ufficio e io sono stato in giro tutta la mattina. Akio è il mio secondo fratello, spiegò rivolto ad Aiwan. Ah, sì, convenne Tama e si alzò con pronta acquiescenza. Non mancherà tempo per discorrere, dato che Aiwan risiederà qui, continuò Bungi. E io ho molte domande da farvi sul conto del vostro grande paese, disse Tama ad Aiwan. Una specie di grazioso formalismo caratterizzava ora il suo tono. Noi giapponesi dobbiamo tutto alla Cina. Aiwan non rispose. Pensò, non voglio parlare del mio paese, ma tacque. L'ombra ora si faceva quasi palpabile. Finite le risate, tutti erano molto formali. Siete pronto? Domandò Bungi. Sì, ma questi abiti? Anch'io devo cambiarmi. A più tardi, disse Tama. Eseguì il suo leggero inchino e più che allontanarsi parve sparire. Aiwan, seguendola con gli occhi, pensò che non aveva mai visto grazia uguale a quell'inchino. Solo lo scatto della testa verso l'alto a inchino terminato lo lasciava perplesso. Ma Bungi non badava alla sorella e disse vivamente: E ora al lavoro! Pareva un altro, e quando parlava di lavoro non rideva.